America 24 di Mario Platero. These are astonishing times, scary, just nothing that I expected ever to see in my lifetime, or I think that any, just about any economist, expected to see. Buongiorno, benvenuti ad America 24, Stati Uniti d'Europa. Questo è il monito che Paul Krugman lancia dall'alto del suo podio di premio Nobel e di economista. La voce che avete ascoltato è la sua, è un appello accorato in cui confida il suo stupore, la sua paura, il fatto di non aver mai immaginato di poter osservare dei momenti così difficili dal punto di vista economico. Da New York è Mario Platero che vi saluta e affrontiamo oggi di nuovo la questione della debolezza strutturale dell'Europa, vista naturalmente da questa parte dell'Atlantico. Krugman in sostanza sostiene la tesi che l'Europa non deve davvero preoccuparsi del disavanzo eccessivo, piuttosto, sostiene Krugman, il problema vero dell'Europa è quello di non avere un'unione politica coesa. Per esempio, in America la Florida sarebbe stata protetta dal governo federale in modo molto più diretto, non ci sarebbe stato un problema sul dollaro se la Florida avesse avuto un problema di indebitamento, invece ecco che in Europa l'abbiamo. Perché? Perché c'è questo problema politico. Tutto il resto, dice Krugman, è un po' come nascondere la verità dietro un dito, e include in questo anche la recente polemica su Goldman Sachs, che avrebbe concesso dei prestiti, diciamo così, un po' mascherati alla Grecia, o comunque avrebbe agevolato attraverso strumenti finanziari piuttosto complessi la possibilità di nascondere alcune delle sue posizioni debitorie alla Grecia per poter così entrare nell'euro. Tutto secondario, afferma Krugman, occorre invece preoccuparsi di una unità politica dell'Europa che vada a equilibrare quella che in questo momento è una unità economica. Proprio ieri sera mi ha colpito un documento emesso da Edmund Phelps della Columbia University, del Centro sul Capitalismo e sulla Società, un documento riassuntivo che andrà al gruppo dei 20 con un appello. Le considerazioni di Phelps, in rappresentanza di molti economisti internazionali, sono delle considerazioni che riguardano il benessere di una nazione, non per imitare naturalmente Adam Smith, ma secondo Phelps, perché una società, una nazione sia normalmente prospera, perché questa prosperità non dipenda da fattori casuali, la sua economia deve possedere un dinamismo economico adeguato, una capacità e una propensione all'innovazione e un'adeguata inclusione economica, e quindi un'inclusione economica che dia accesso a posti di lavoro a tutti. Cosa bisogna fare per guardare oltre la crisi e per riportare l'economia su un sistema produttivo e soddisfacente? Intanto bisogna ristrutturare sia il sistema finanziario che il sistema degli affari. Bisogna promuovere l'inclusione dei lavoratori riformando il mercato del lavoro e bisogna avere più innovazione, sostiene Phelps, e soprattutto sottolinea non dobbiamo abbandonare quelle che sono state le innovazioni di mercato. Il dinamismo prodotto dalla flessibilità, dal movimento della forza lavoro, semplicemente perché siamo entrati in una crisi economica. La sua dunque è una difesa di quello che di buono c'era nel capitalismo, e c'è di nuovo un messaggio all'Europa di guardare in avanti, di non perdersi necessariamente in quello che è il problema appunto della Grecia, che poi è un problema relativamente piccolo nel contesto macro delle cose, dell'economia globale, e soprattutto non spaventarsi davanti a queste crisi per fare dei passi in indietro. Il terzo messaggio all'Europa dall'America è venuto qualche tempo fa, ma non posso fare a meno di collegarlo, dal presidente Obama, quando ha cancellato il suo viaggio in Europa per un vertice con Bruxelles che doveva tenersi in Spagna, e allora la giustificazione fu che alla fine non si trattava davvero di un vertice europeo, il presidente americano non avrebbe avuto una sua diretta controparte e quindi non si recava il presidente in Europa per quello che sarebbe poi stato semplicemente un vertice spagnolo. Tre messaggi che puntano tutti in una direzione: forza politica dell'Europa, approfittare di questa situazione per serrare le fila, e soprattutto sul piano economico, e qui parliamo di Phelps, non lasciamoci prendere la mano per riguardare all'indietro piuttosto che per guardare in avanti. È una notizia di ieri. Il senatore Evan Bay, importante senatore dell'Indiana, ha dichiarato che non si ripresenterà alle elezioni per un terzo mandato a novembre. Rassegna le dimissioni di fatto. Evan Bay è un personaggio chiave per il Partito Democratico, era considerato un potenziale candidato presidenziale, è stato considerato come possibile vicepresidente di Obama, un democratico moderato che garantiva uno Stato importante. A 54 anni ha un futuro brillante davanti a sé, è stato due volte governatore dello Stato, suo padre anche era stato senatore. Il fatto che si ritiri crea un problema. Di nuovo un senatore repubblicano potrebbe vincere lo Stato. Si è presentato Dan Coats, una figura conosciuta in Indiana, fu già senatore dell'Indiana negli anni 90, e a questo punto con l'uscita di Bay le probabilità di perdere anche quello Stato per i democratici a novembre diventano molto più elevate. Now having spent two decades in politics, my life is taking a new direction. And I will not be a candidate for re-election this year. Questa invece era la voce di Patrick Kennedy. Anche lui qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dalla vita politica, non si ripresenterà per il seggio alla Camera del Rhode Island che aveva rappresentato per molti anni, e dunque non c'è più un Kennedy in Parlamento che possa rappresentare di nuovo quella bandiera per il Partito Democratico, una bandiera di cui il partito ha bisogno nel momento in cui si avvicina a elezioni che sono davvero difficili. La mia impressione è che forse si dovrebbe puntare anche sulle donne. C'è Kerry Kennedy, la figlia di Bob Kennedy, che potrebbe farsi sotto in politica. Resta il fatto che il Partito Democratico è in difficoltà e contrattacca. Come? Scott Brown in Massachusetts, who said we ought to be spending money catching terrorists, not spending money to make sure they had a lawyer. Il contrattacco democratico parte da Joe Biden, il vicepresidente. Nel weekend Biden ha attaccato Dick Cheney e ieri ha attaccato il senatore Scott Brown. Lo avete sentito nelle parole che ho usato poco fa per dire che questo signor Brown ha bisogno di conoscere i fatti quando dice che i democratici vogliono spendere i soldi del contribuente per pagare un avvocato ai terroristi. Biden non solo ha difeso la posizione istituzionale e costituzionale americana, ma ne ha approfittato per attaccare Brown dicendo che non conosce i fatti. Brown, il più giovane senatore repubblicano, già in un confronto con il vicepresidente, mi sta insultando, ha detto: i fatti li conosco benissimo e confermo, l'America non può spendere i soldi del contribuente per proteggere i terroristi, un argomento questo che ha forte presa sull'opinione pubblica americana. Democratici dunque in gravi difficoltà. Ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Duck Figure, cantante dei NAC, gruppo pop famoso per My Sharona, è purtroppo morto a Los Angeles a soli 57 anni, vittima di un cancro al cervello. Vi riproponiamo questa fantastica canzone degli anni 70, fine anni 70, My Sharona, che dedichiamo a Doug. Che tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!